Certamente no, dirai. Che discorsi, me ne guardo bene. Eppure niente di più facile perché, anche quelli che appartenevano e appartengono tuttora ad una setta, sono più che convinti di essere nel giusto. E poi, mi risponderai con sicurezza, nella chiesa alla quale appartengo si legge la Bibbia, che è la parola di Dio, e mettiamo in pratica ciò che è scritto. Dove posso sbagliare? L'errore è proprio lì. Per prima cosa, ricordati che molte eresie sono nate proprio impugnando la Bibbia. E, poi, non dimenticare che l'errore più pericoloso è quello più prossimo alla verità. Se io ti dicessi che la Bibbia non è la parola di Dio, ti rifiuteresti di crederci, ma se ti dico che la Bibbia è sì, la parola di Dio, ma non è un libro che abbia valore per la vita presente, forse molti, sarebbero pronti anche a crederci. Ecco perciò che l'eresia si nasconde dietro all'angolo anche per il più virtuoso e sincero credente, per cui è più che saggio porsi alcune domande che ti aiutino a esaminare tanto te stesso quanto è la Chiesa alla quale appartieni, ma, soprattutto, se ti rendi conto di appartenere ad una Chiesa o un movimento settario, fai di tutto per svincolarti dalla posizione nella quale ti trovi perché più aspetti e più sarà difficile per te uscirne, sempre ovviamente che tu voglia uscirne. Perché non tutti coloro che giungono a conoscere la verità l'accettano con tutto il cuore e abbandonano l'errore. Gesù lo ha dimostrato raccontando la parabola del seminatore, nella quale ha messo in evidenza che solo un quarto degli ascoltatori del Vangelo ubbidiscono al volere di Dio e, definendo onesto e buono solo chi accetta il messaggio relativo a Cristo e porta frutto con perseveranza. Per forza di cose, una chiesa settaria deve possedere e manifestare delle caratteristiche che tu fai e farai bene a considerare, perché come le malattie si riconoscono dagli effetti, così da un certo comportamento puoi riconoscere a quale chiesa o gruppo appartieni. Lascia stare il nome più o meno biblico che appartiene alla tua organizzazione, non dare valore all'opinione del pubblico in relazione al movimento al quale appartieni, ma esamina scrupolosamente i risultati e a quelli dai valore, soprattutto se credi di essere un privilegiato e scelto assieme a pochi altri a conoscere la verità. Voglio insistere sul fatto che tu possa far parte di una chiesa con comportamenti settari, perché è difficilissimo individuare l'errore quando da anni si è abituati a fare certe cose, dato che l'abitudine, il consueto, l'ordinario, sono in grado di nascondere i più tremendi errori e i più gravi crimini che una persona possa commettere. Forse non ci crederai fino in fondo, e posso comprendere un tale atteggiamento, perché nel più profondo di noi stessi non crediamo che un essere umano possa arrivare a compiere delle gravi scelleratezze senza rendersene conto, ma ti assicuro che purtroppo la nostra coscienza è in grado di arrivare ad approvare le più criminose azioni senza il minimo scrupolo. Vorrei approfondire questo argomento, ma mi limito a portarti un solo esempio, fiducioso, che non pensi sia mia intenzione divagare dall'argomento da trattare, anzi, ciò che dirò è la inequivocabile e inconfutabile prova di come sia possibile appartenere ad un gruppo con idee settarie e vivere nella più grande serenità e convinzione di compiere cose giuste. Ti riporto la testimonianza di Suad, una giovane ragazza della Cisgiordania rifugiatasi in Occidente mediante una organizzazione umanitaria, perché bruciata viva. Nel libro in cui ha rilasciato la sua testimonianza, ho notato che la parola più spesso usata è «normale». Essa descrive così la condizione delle donne del suo paese. Laggiù una donna non ha vita. Molte ragazze vengono picchiate, maltrattate, strangolate, bruciate, uccise, e per noi è tutto all'ordine del giorno. Mia madre ha cercato di avvelenarmi per finire il lavoro di mio cognato, cioè di averla bruciata viva, e per lei era normale. Faceva parte del suo mondo. È così che cresciamo noi donne. Ti riempiono di botte, è normale. Ti danno fuoco, è normale. Ti strangolano, è normale. La mucca e le pecore meno, diceva mio padre, meno. Valgono più delle donne. Se non si vuol morire bisogna tacere, obbedire, strisciare, sposarsi vergini e fare dei figli maschi. Se fossi rimasta nel mio paese, questa è la vita che avrei avuto. Le mie figlie sarebbero diventate come me, e le mie nipoti pure. Se fossi vissuta là, sarei stata come mia madre, che ha soffocato le sue bambine appena nate. Forse anch'io l'avrei fatto. Forse anch'io avrei fatto bruciare mia figlia. Adesso mi sembra mostruoso, ma se fossi rimasta al mio paese, no. Quando ero all'ospedale, laggiù, e stavo per morire, pensavo ancora che tutto quello che mi stava succedendo fosse normale. Suad bruciata viva, edizioni PM, settembre 2008. Sembra incredibile che queste cose possano succedere anche nel 2000, come sembra incredibile ciò che dice ancora. Suad, un giorno senza botte non è un giorno normale. Dunque, non sempre ciò che è normale è giusto, e la normalità a volte è ingiusta. Detto questo, ti rendi conto che la più grande sfida nell'ambito religioso è di non appartenere ad un gruppo o ad una chiesa settaria, e anche che tu stesso non abbia comportamenti settari. A questo punto occorre fare una precisazione del termine setta o settario. Oggi il termine setta possiede un'accezione negativa indicante un gruppo di persone che, con atteggiamenti di chiusura, pretende di possedere esso solo la conoscenza della verità e dal quale è rigidamente escluso chiunque non faccia parte di quel gruppo. Come termine storiografico, fanno notare gli studiosi in materia meno, si riferisce ad ognuna delle società segrete che sorsero tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell'Ottocento nei vari paesi dell'Europa, con programmi e attività contrarie al governo e alla politica dei singoli stati. In realtà, fanno notare sempre gli addetti al lavoro, il termine deriva da un verbo greco che significa scegliere, privo di alcuna connotazione negativa ma avaloriale. Ma, per forza di cose, conviene usare il termine setta e settario nella sua accezione negativa. Anche perché troviamo questa connotazione applicata ai suddetti vocaboli già negli scritti dei discepoli di Gesù, datati intorno agli anni 60 d.C., prima della distruzione della città di Gerusalemme, e del suo Tempio. Infatti, a quel tempo il giudaismo era contraddistinto da una varietà di movimenti religiosi che venivano definiti sette, come i farisei, at 5.17, 15.5. I Nazareni, at 24.5, e perfino i cristiani, at 24.14, 28.22. Dunque, all'infuori del giudaismo, che era una religione millenaria, ogni altro movimento religioso era ritenuto una setta. Questo del resto si accorda con il pensiero di oggi, che per setta intende, come afferma il dizionario enciclopedico Treccani, una dottrina che si opponga a di altra pie diffusa o già affermantico testamento. Ne consegue che, dove vi è una cultura cattolica romana, sono ritenute sette tutti quei movimenti in opposizione alle verità rivelate dal romanesimo. Ma considerare il termine setta in questo modo mi sembra molto partigiano, per cui trovo molto più opportuno dargli il valore che aveva inizialmente. Antico testamento teggiame nuovo testamento religioso, che non è conforme alla rivelazione d'Antico Testamento ad Dio tramite i profeti e gli apostoli. Per questo, Paolo ordina a Tito, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, Tito 3.10. Cioè, chi sceglie di non condursi in modo degno dell'Evangelo e provoca divisioni deve essere messo in guardia, avvertito. Se poi non vuole ubbidire, non è più un tuo compagno di viaggio nella fede. Dunque, se con termine settario intendiamo chi fa una scelta, tutto il mondo è settario perché si scelgono religioni, partiti, concetti filosofici e quindi il termine non ha nessuna connotazione negativa. Se invece intendiamo quell'atteggiamento religioso che non è conforme alla rivelazione data da Dio tramite i profeti e gli apostoli, allora c'è già da riflettere se, per prima cosa, tutte le religioni che non hanno un fondamento biblico, per forza di cose, sono settarie. Mentre quelle che hanno un fondamento biblico ma ne negano con i fatti l'insegnamento non possono essere che sette. Questo deve essere detto non come giudizio di condanna o come atto di disprezzo, ma solo come una constatazione di fatto e perché chi ha un comportamento contrario al volere del Dio Trino deve riflettere seriamente sulla fede che professa. A parte il fatto che tutti, ma proprio tutti, devono mettere in discussione la propria fede perché non ci è errore peggiore che credere di essere nel giusto. senza aver prima setacciato con una buona dose di autocritica ciò che si professa. Ho presente quel musulmano al quale parlavo del Vangelo e che con una ostinata certezza rifiutava ogni ragionamento perché profondamente convinto che solo la sua religione fosse quella giusta. Gli feci un'ultima riflessione. Tu sai che i cattolici sono convinti di essere nel giusto, ma però anche se sono profondamente convinti sbagliano. È vero? Certo che sbagliano, rispose orgogliosamente il musulmano. Anche se sono convinti, vero? Incalzai. Proprio così, rispose ancora più forte il musulmano. E tu gli chiesi, che sei profondamente convinto che solo la tua religione sia giusta. Non pensi di essere come i cattolici? La tua profonda e ostinata convinzione non rende vera una cosa falsa. Tu credi di essere nel vero solo perché ne sei convinto, ma non hai mai sottoposto la tua fede ad un serio esame critico. Potresti sbagliare, non ti sembra? Anche questa esperienza mi ha maggiormente convinto che una fede cristiana e non messa al vaglio dei dubbi e della critica, molto probabilmente ha molte lacune. Non è sufficiente professare la fede dei padri. Occorre mettere la proprie convinzioni religiose al fronte, dove vige la più dura battaglia. E forse per questo che mi compiaccio di parlare di Cristo, di essere contraddetto e schernito, perché solo in quei momenti realizzo quanto sia vero per me ciò che credo e professo. Il settarismo è sempre alle porte, ma una fede confessata e contestata viene limata nei suoi angoli spigolosi, e Dio è in grado di far comprendere i vari errori a chi ha un cuore onesto e sincero. Questo principio mi rende sereno e fiducioso. Un autentico spirito congregazionalista dove regna il rispetto reciproco, dove la verità della volontaria e reciproca sottomissione è vissuta concretamente, è F5.21, dove C è uno spirito di sobrietà, Ro 12.3, e l'altro è valutato più di se stessi, FL2.3, dove è considerato necessario anche l'elemento più debole, 1 Cor 12.225, dove il liderismo così tanto diffuso oggi è sostituito da un cristiano spirito di servizio, dove il rispetto per l'individuo